Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto agli ascoltatori. Abbiamo già parlato di buoni fruttiferi postali, magari adesso tu Gianluca ci ricorderai bene che cosa sono, perché sono cambiate alcune cose, ci sono stati degli sviluppi su questa vicenda. Sì, degli sviluppi decisamente positivi, Francesco, perché noi nel 2014 ne abbiamo parlato durante la tua trasmissione e gli abbiamo parlato di una situazione che era ancora tutta in divenire. I buoni fruttiferi postali sono una forma di risparmio, sono dei titoli di credito acquistati dai risparmiatori che consentono chiaramente nel corso degli anni di, a fronte appunto di una somma depositata, in questo caso appunto presso le poste, consente di ottenere dei buoni risultati a livello di interessi che sono indicati tra l'altro negli stessi buoni fruttiferi, per cui insomma è una forma di risparmio classica che sembrava abbastanza sicura. Diciamo che tante persone ci hanno puntato, stiamo parlando soprattutto di persone che hanno investito in questa forma di risparmio negli anni 80, metà anni 80, chiaramente 1980-85 e 86, adesso ti spiego anche perché specifico bene l'anno. Cosa succede? Succede che proprio nel 2013-2014 molte persone sono rivolte a noi contestando il fatto che andavano alle poste per ritirare appunto l'importo versato con relativi interessi a scadenza naturale, quindi dopo 30 anni, perché sono buoni fruttiferi trentennali, dopo 30 anni appunto c'è la possibilità di farti restituire l'importo e dopo il 30° anno scattano i 5 anni dopo i quali il buono fruttifero va in prescrizione, quindi dal 30° anno in poi bisogna andarli a ritirare con delle cifre che dovrebbero essere importanti. Invece contestavano le persone che si sono rivolte a noi, le poste accordavano degli importi decisamente più bassi rispetto a quelli che devono essere secondo i calcoli, insomma, legati agli interessi. Diciamo che le poste a quel tempo si riferivano a un non meglio specificato provvedimento che noi governativo, che noi abbiamo sempre contestato. Cosa succede? La novità positiva di adesso è questa: dopo aver provato veramente in molti modi bonari, pacifici, di ottenere soddisfazione per i nostri iscritti, quindi siamo rivolti alle poste per cercare una mediazione e all'arbitro bancario anche là per cercare una mediazione, a un certo punto siamo passati per due risparmiatori veneziani al tribunale presentando dei decreti ingiuntivi. Fondamentalmente il nostro ufficio legale, l'ufficio legale dell'Adico, si è basato sul fatto che questo è un credito puro, un credito certo, un credito liquido, che quindi permette di far sì che si presenti un decreto ingiuntivo. In pochissimo tempo il Tribunale di Venezia ha detto sì, è vero, avete ragione voi ricorrenti, e praticamente ha detto alle poste che devono restituire gli importi completi, che sono degli importi importanti, perché a un socio che a metà anni 80 aveva versato 1 milione di lire sono stati accordati 17.000 euro, 36.000 euro invece una persona che aveva versato 2 milioni di lire. Capiamo che insomma è stato un bel investimento, però le poste vogliono risarcire solo metà di questi importi, il tribunale invece impone la restituzione degli importi completi. È inutile dire, Francesco, che siamo molto orgogliosi, è una grande vittoria, perché anche chiaramente apre le strade per tanti nuovi tentativi di richiesta di presentazione di decreto ingiuntivo. Per cui insomma crediamo che questo abbia aperto la strada a importanti provvedimenti per molti risparmiatori, per tanti che sono anche rivolti a noi. Ecco, quindi chi ha dei buoni fruttiferi postali e magari non ha ottenuto quello che avrebbe dovuto ottenere, insomma, magari una telefonata all'Adico, io ve la consiglio perché potreste sorridere un po' di più. Sì, anche perché, Francesco, devo dire che sembrava una storia non a lieto fine. Noi siamo conosciuti per essere abbastanza insistenti, non è che molliamo poi nelle nostre battaglie, quindi era una battaglia che abbiamo continuato per molto tempo e non ci siamo mai arresi, però dobbiamo dire che, ad esempio, con altre cose legate alle poste, tipo le poste Pay, la clonazione delle poste Pay, si erano ottenuti dei risultati molto, molto più rapidi e soddisfacenti. siamo dovuti andare per tramite il tribunale, noi prestiamo sempre le conciliazioni e le mediazioni, ma abbiamo dovuto fare questo e abbiamo ottenuto un ottimo risultato veramente. Fantastico, continuiamo a guardare anche il sito dell'Adico, che è www.associazionedifesaconsumatori.it. Voi pubblicate sempre tutta l'estate anche molte notizie che sono interessanti da approfondire, e trovate anche i contatti per chiamare l'Adico qualora ne abbiate la necessità. Grazie a Gianluca Codognato e buone vacanze, perché so che vai in vacanza. Grazie e buone vacanze a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.